tanto l'amore dell'uomo, dell'uomo, dell'uomo. L'amore di Dio dai campi, dai prati, dai prati, dai prati. Ritorno e verso all'Evangel, mi sento attratto, ma cingo a meditar. Poiché voi messeri il nome a tal virtù, suelo.